Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? I capolavori dei maestri del Rinascimento al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. A grande richiesta, prorogata al 29 gennaio. palazzodiamanti.it. Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte. Traduzione di Monica Pareschi. A un certo punto del pomeriggio sollevai la testa e guardandomi intorno mi accorsi che il sole pomeridiano calando lasciava un riflesso dorato sul muro. Allora mi chiesi: che cosa devo fare? E la risposta che mi diedi, lascia subito Thornfield, fu così pronta, così terribile, che mi tappai le orecchie. Lottai con la mia stessa risoluzione. Mi girava la testa. Avevo la vista offuscata e le gambe molli. Non riuscivo a reggermi in piedi e caddi, ma non a terra. Un braccio teso mi sostenne. Alzai gli occhi. Era Rochester che mi reggeva, seduto su una sedia davanti alla porta della mia stanza. «Sei uscita finalmente», disse. «Sono ore che aspetto. Stavo con l'orecchio teso, ma non ho sentito né un movimento né un singhiozzo. Ancora 5 minuti di questo silenzio di tomba e avrei forzato la serratura come un ladro, dunque mi eviti. Ti rinchiudi per soffrire in solitudine. Avrei preferito che fossi venuta da me e mi avessi affrontato. Tu hai un carattere impetuoso e mi aspettavo una scenata. Ero preparato alle lacrime e speravo che le avresti versate sul mio petto, non su un pavimento gelido. Ma mi sono sbagliato. Tu non hai pianto affatto. Signor Rochester, io devo lasciarvi. Per quanto tempo, Jane? Per qualche minuto? In modo da poterti ravviare i capelli, che in effetti sono un po' in disordine, e per rinfrescarti il viso che sembra febbricitante. Devo lasciare Adele e Thornfield. Devo separarmi da voi per tutta la vita. Devo cominciare una nuova esistenza, tra gente diversa e in un ambiente diverso. Naturalmente te l'ho già detto, lasciamo perdere la follia di separarti da me. In realtà tu devi diventare parte di me. Per quanto riguarda una nuova esistenza, hai perfettamente ragione. Nonostante tutto, sarai mia moglie, perché io non sono sposato. Tu sarai la signora Rochester, di nome e di fatto. Sarò legato a te finché saremo in vita. Andrai a stare in una casa che ho nel sud della Francia, una villa bianca sulle rive del Mediterraneo. Lì vivrai una vita felice, protetta, innocente. Non temere che voglia trascinarti nella colpa, che voglia fare di te la mia amante. Perché scuoti la testa? Jane, devi essere ragionevole, o perderò davvero la testa. Gli tremavano la voce e le mani. Le larghe narici si dilatarono ancora di più, gli occhi lanciavano fiamme, tuttavia ebbi l'ardire di parlare. «Signore, vostra moglie è viva. Lo avete ammesso anche voi stamattina. Se io stessi con voi, come desiderate, sarei la vostra amante. Qualunque altra definizione è un sofisma, una menzogna. Janet, metti la tua mano nella mia». che io possa avere la prova di quanto mi sei vicina. E in poche parole ti spiegherò come stanno in realtà le cose. Puoi ascoltarmi? Sì, signore, anche delle ore, se vorrete. Ti chiedo solo qualche minuto, Jane. Tu sai, o ti hanno mai detto, che un tempo avevo un fratello maggiore? E hai anche sentito dire che mio padre era un uomo avido e attaccato al denaro? Ho sentito qualcosa del genere, sì. Ebbene, Jane, stando così le cose, aveva deciso di mantenere unita la proprietà. Non sopportava l'idea di dividerla e lasciare a me la mia parte. Tutto doveva andare a mio fratello Rowland. Tuttavia, non poteva nemmeno tollerare che uno dei suoi figli fosse povero, ragione per cui io dovevo fare un matrimonio vantaggioso. Mi cercò dunque una moglie. Il signor Mason, un coltivatore commerciante delle Indie occidentali, era una sua vecchia conoscenza. Si informò e venne a sapere che Mason aveva un figlio e una figlia, alla quale avrebbe dato, a suo dire, una dote di 3.000 sterline. Una cifra sufficiente, insomma. Appena uscito dall'università, fui perciò mandato in Giamaica a sposare la donna che era stata scelta per me. Mio padre non parlò di denaro, ma mi disse che la signorina Mason, per la sua bellezza, era il vanto di Spanish Town. E non era una bugia. La trovai bella. Sul genere Blanche Ingram. Alta, bruna, maestosa. La famiglia era molto favorevole al matrimonio con un giovane di buona famiglia. E lo era anche lei. Me la mostrarono nel corso di alcuni ricevimenti, splendidamente vestita. La vidi raramente da sola ed ebbi pochissimi colloqui privati con lei. Mi lusingava mettendomi sotto gli occhi le sue attrattive e i suoi talenti. Tutti gli uomini del suo ambiente si mostravano ammirati e invidiosi nei miei confronti. Ero abbagliato e incoraggiato. I miei sensi si risvegliarono e, ignorante, ingenuo e inesperto com'ero, mi convinsi di amarla. I parenti di lei facevano pressioni, i rivali stuzzicavano il mio orgoglio, lei mi allettava. Il matrimonio fu celebrato senza che quasi me ne accorgessi. Non avevo mai visto la madre di mia moglie e la immaginavo morta. Dopo la luna di miele però seppi che non era così. Era pazza e rinchiusa in un manicomio. C'era anche un fratello più giovane completamente idiota. Il maggiore che tu hai conosciuto un giorno sarà probabilmente nelle stesse condizioni. Mio padre e mio fratello Rowland erano al corrente di come stavano le cose, ma pensavano solo alle 3.000 sterline e si unirono al complotto contro di me. Morto mio fratello e al termine di quei 4 anni morì anche mio padre. A quel punto ero decisamente ricco e tuttavia povero, fino alla miseria più nera. Ero legato all'essere più volgare, impuro, depravato che avessi mai visto. E per la legge, per la società, quell'essere era parte di me. E non potevo intraprendere alcuna lezione legale per sbarazzarmene, perché adesso i medici avevano stabilito che mia moglie era pazza. I suoi eccessi avevano generato prematuramente i presupposti della follia. Jane, vedo che quello che ti sto raccontando ti fa star male. Vuoi che continui un altro giorno? No, signore. Finite pure. Vi compatisco. Vi compatisco davvero. Una notte ero stato svegliato dalle sue urla. Era una di quelle notti torride che nelle Indie occidentali precedono spesso gli uragani. L'aria sembrava di zolfo, non trovavo refrigerio da nessuna parte. Sovrastato da nuvole nere, e il mare rombava cupo come un terremoto. La luna affondava nelle onde, grande e rossa come una palla di cannone infuocata, gettando un ultimo, sanguinoso sguardo su un mondo che tremava in attesa della tempesta. Ero fisicamente influenzato dall'atmosfera e dalla scena che avevo sotto gli occhi e avevo le orecchie piene delle imprecazioni che continuava a urlare la pazza, alle quali lei presto accostò il mio nome con un odio diabolico e con un linguaggio, parole talmente sconce che neppure una sgualdrina sarebbe in grado di pronunciarle. Due camere ci separavano, ma udivo ogni insulto, perché le pareti sottili delle case delle Indie occidentali non costituivano un ostacolo a quelle grida belluine. «Questa vita», mi disse infine, «è un inferno. La stessa aria, gli stessi suoni dell'abisso senza fondo. Io ho il diritto di liberarmene se posso». Un vento fresco, in arrivo dall'Europa, lambì l'oceano ed entrò dalla finestra aperta. Finalmente scoppiò l'uragano con tuoni e lampi. Diluviò e l'aria divenne pura. Allora presi una decisione. Torna a vivere in Europa. Là nessuno conosce la macchia che reca il tuo nome, né l'infame fardello che ti porti addosso. Puoi portare con te in Inghilterra quella donna. Rinchiuderla a Thornfield con tutte le cure e le precauzioni necessarie e poi andare dove vuoi, crearti un nuovo legame. Questa donna che ti ha imposto tanta sofferenza, che ha offeso il tuo onore e rovinato la tua giovinezza, non è tua moglie e tu non sei suo marito. Fai in modo che abbia tutte le cure che la sua condizione richiede. E avrai fatto tutto quello che Dio e gli uomini si aspettano da te. Lascia che l'oblio seppellisca la sua identità. I rapporti che ti legano a lei non sei costretto a rivelarli ad alcun essere umano. Garantiscile sicurezza e benessere. Tieni segreto il suo degrado e abbandonala. «Ora sai come stanno le cose, no?» continuò. «Dopo una gioventù e un'età adulta trascorse per metà in una condizione di indicibile infelicità e per l'altra metà in una spaventosa solitudine, finalmente ho trovato una donna che posso davvero amare. Ho trovato te. Tu sei l'altro me stesso, la mia parte migliore, il mio buon angelo. Nel mio cuore c'è una passione grande e fervida che mi avvicina a te. Ti avvicina al nucleo e alla fonte stessa della mia vita. Ti avvolge tutta nella mia esistenza e ci unisce un'unica fiamma pura e potente fondendoci in un'unica persona. Proprio perché sentivo e sapevo tutto questo ho deciso di sposarmi. Ho sbagliato a cercare di ingannarti. Ma temevo la tua natura inflessibile. Volevo essere sicuro di averti prima di arrischiarmi a parlare. Sono stato un vigliacco. Avrei dovuto fare appello fin dal principio a quanto c'è di nobile e generoso in te, come sto facendo ora. Non tacerti nulla della mia vita di miserie. Descriverti la mia fame e la mia sete di un'esistenza più alta e più nobile. Mostrarti non tanto la mia decisione, ma il mio irresistibile bisogno di amare fedelmente e profondamente e di essere fedelmente e profondamente riamato. E infine avrei dovuto chiederti di accettare la mia promessa di fedeltà e di darmi la tua. Jane, dammela ora. Silenzio. Perché non dici nulla, Jane? Fu una vera ordalia. Una mano di ferro, rovente, mi stringeva le viscere. Fu un momento atroce, pieno di conflitti, di buio, di fiamme. Nessun essere umano avrebbe potuto desiderare di essere amato più di quanto lo volessi io. E io adoravo colui che mi amava così. Dovevo rinunciare ad amare un idolo. Una parola terribile riassumeva il mio insopportabile dovere. Parti. Jane, ti rendi conto di quello che ti chiedo? Solo questa promessa. Sarò vostra Edward. Signor Rochester, io non sarò vostra. Un altro lungo silenzio. Jane, riprese con una dolcezza che mi spezzò il cuore, mi raggelò in un terrore sinistro perché quella voce calma era l'ansito di un leone che si levava. Jane, stai dicendo che te ne andrai per la tua strada e io devo andarmene per la mia? Sì, Jane, chinandosi verso di me per abbracciarmi, è davvero quello che vuoi? Sì, e adesso, baciandomi teneramente la fronte e la guancia. Sì, ripetei divincolandomi in fretta una volta per tutte. Oh, Jane, che amarezza, che perfidia. E amarmi non lo sarebbe affatto. Lo sarebbe obbedirvi. Un'espressione furibonda gli fece inarcare le sopracciglia, stravolgendogli i lineamenti. Si raddrizzò, ma riuscì ancora a dominarsi. Posai una mano sullo schienale di una sedia per sorreggermi. Tremavo dallo spavento, ma ero decisa. Un istante solo, Jane. Insieme a te mi sarà strappato ogni brandello di felicità. Che cosa rimarrà allora? Per moglie non ho che quella pazza di sopra. A questa stregua potresti consegnarmi a uno dei cadaveri che riposano nel cimitero laggiù. Che cosa farò, Jane? Dove troverò una compagna che mi darà un po' di speranza? Fate come me. Fidatevi di Dio e di voi stesso. Credete nel paradiso. Sperate di incontrarmi ancora lassù. Non intendi cedere, dunque? No. E mi condanni a vivere infelice e a morire maledetto. E qui alzò la voce. Vi consiglio di vivere senza peccato e vi auguro di morire in pace. Allora vuoi togliermi l'amore e l'innocenza? Vuoi ricacciarmi nella lussuria e nel vizio? Signor Rochester, non vi assegno questo destino più di quanto lo accetti io stessa. Siamo nati per lottare e sopportare. Questo vale per voi come per me. Fatelo dunque. Mi dimenticherete prima di quanto vi dimenticherò io. Così mi dai del bugiardo. Ti ho giurato che per me non cambierà niente. Tu mi dici in faccia che presto sarà tutto diverso. Il tuo comportamento mostra il tuo pregiudizio. È forse meglio ridurre un uomo alla disperazione che trasgredire a una semplice legge umana senza recar danno a nessuno. Tu non hai né parenti né amici che potresti temere di offendere se vivessi con me. Era vero. E mentre parlava, la coscienza e la ragione si rivoltavano a tradimento contro di me e mi facevano una colpa di resistergli. La loro voce risuonava forte, quasi come il sentimento che gridava selvaggiamente: accontentalo, pensa alla sua infelicità, pensa al pericolo che corre, considera quel che sarà di lui quando rimarrà solo, ricordati del suo carattere imprudente, pensa agli impulsi generati dalla disperazione, rasserenalo, salvalo, amalo, digli che lo ami e che sarai sua. Chi si cura di te al mondo? Chi riceverà un danno da quello che fai? La risposta giunse tuttavia indomita. Sono io a dovermi curare di me stessa. Quanto più sono sola e priva di amici, quanto più sono indifesa, tanto più devo rispettare me stessa. Obbedirò dunque alla legge che Dio ha dato agli uomini. Mi atterrò ai principi ricevuti quando ero in me e non fuori di me come ora. Idee già formate, decisioni già prese, sono tutto quello che ho in questo momento per resistere. E a esse mi aggrapperò. E così feci. Il signor Rochester, leggendomi in viso, vide che ero decisa. La sua ira era al colmo ed egli fu costretto a cederle per un momento qualunque cosa potesse seguire. Attraversò la stanza. Mi afferrò la mano e mi strinse alla vita. Il suo sguardo infuocato sembrava volermi divorare. In quell'attimo mi sentii indifesa nel corpo come una stoppia esposta al sole e all'impeto di una fornace. Nello spirito, invece, ero ancora padrona della mia anima. E l'anima, per fortuna, ha un interprete, talvolta inconscio, ma sempre fedele, negli occhi. Te ne vai, Jane? Me ne vado, signore. Mi lasci dunque? Sì. Non verrai da me, non sarai il mio conforto e la mia salvezza. Il mio amore profondo, il mio crudele dispiacere, le mie preghiere disperate non sono nulla per te. Che passione indicibile c'era nella sua voce. Com'era difficile ripetere fermamente: me ne vado, Jane. Signor Rochester, va dunque, te lo consento. Ma ricordati che mi lasci nell'angoscia. Sali in camera tua, pensa a quello che ti ho detto, Jane, e volgi uno sguardo alla mia pena, pensami. Si volse, lasciandosi cadere a faccia in giù sul divano. Avevo già raggiunto la porta, lettore, ma tornai indietro. Tornai, decisa come mi ero allontanata. Mi inginocchiai accanto a lui, costringendolo a girare il viso verso di me. Gli baciai la guancia, riavviandogli i capelli. Dio vi benedica, mio caro. Il sangue gli affluì al viso e col fuoco che gli ardeva negli occhi si alzò in piedi. Mi tese le braccia. Ma io sfuggii al suo abbraccio e subito abbandonai la stanza. Addio, gridò il mio cuore lasciandolo. La disperazione aggiunse: addio per sempre. Elisabetta Piccolomini ha letto Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.